alla reception dell'Hotel Berchielli. Buonasera. Buonasera, mi dica. Avete una camera prenotata a nome Jenkins? Un attimo. Dunque, no, mi dispiace. Non c'è niente a nome Jenkins. Ma è sicura? Può controllare di nuovo, per favore? Certo. Ma scusi, come si scrive? Sara, come si scrive il suo cognome? With J? Sì, J-E-N-K. Allora, Ilunga E-N-K-I-N-S. I-N-S. Ah, con la Ilunga e la K. Sì, certo. Sara Jenkins, con l'H, giusto? Giusto. Ah, meno male. Is there a problem? No. Nessun problema. Dunque, una camera doppia, vero? Doppia? Sara, vuole una doppia? Una doppia? Oh, no, una singola. Ho capito. Una singola, allora, con bagno o doccia? Oh, una doccia, per favore. Va bene. Fino a martedì, giusto? Oh, dunque, oggi è venerdì. Sì, quattro notti, vero Sara? Yes, that's right. Giusto. Posso avere il suo passaporto, per favore? Sì, ecco il mio passaporto. Grazie. Una firma qui, per favore. Sign here? Sì, grazie. Ecco il passaporto e questa è la chiave. La camera è la 47. La 47? Bene. È al quarto piano. C'è l'ascensore? Certo, a destra. Grazie. Prego, buonasera. Buonasera. Buonasera. Ah, ecco l'ascensore. L'ascensore. Lift? L'ascensore. The lift. Un ascensore. A lift.